the decisions of power, and he described how this created an anxiety and a dis-ease in the population, and that film was a way to counteract that. Ecco qui, Susan Ray dice: io non sono una storica del cinema, ma come lo chiamava lui questo genere? È interessante perché non un documentary, che normalmente sono le due categorie, no, che noi usiamo, o è un film oppure è un documentario, e invece lei dice, Nick lo chiamava un journalistic film, cioè un film giornalistico, quindi che aveva qualche cosa, e così nobilita la nostra professione, qualcosa che serviva a raccontare la realtà, perché diceva questo film was meant to reflect everyday life, to be meant, to viene naturalmente da mean, che vuol dire significare, ma to be meant to do something vuol dire che l'intenzione di qualche cosa è, e poi in questo caso, riflettere la vita di tutti i giorni. Con un punto di vista molto preciso, lui aveva qualcosa da dimostrare. Sì, lui effettivamente anche qui, questo era ahead of his time, non solo nella costruzione delle immagini, cioè lui vedeva, immaginava una società con una power structure, con una struttura del potere in cui non si capiva bene who was in charge, cioè chi davvero comandasse, e quindi no one would take responsibility. E quindi alla fine la responsabilità è di tutti e di nessuno, e quindi nessuno si prende poi la responsabilità, to take responsibility, esattamente come in italiano, prendersi la responsabilità delle scelte, naturalmente delle conseguenze delle scelte. Che avevano poi un riflesso sulla population. E questo fatto, sicuramente da cittadini, quindi dalla population, di non sapere a chi magari anche dare il merito, ma soprattutto dare le colpe, creava un disease. Molto interessante l'uso che lei fa di questa parola, perché disease, se lo si pronuncia tutto, diciamo così, tutto attaccato, naturalmente è malattia, ma disease, che è in realtà la radice vera della parola, vuol dire non essere a proprio agio, perché to be at ease vuol dire essere a proprio agio. This is vuol dire non esserlo, quindi crea più che una vera e propria malattia, naturalmente non di malattia si tratta, ma di un autentico profondo disagio. Abbiamo parlato della tecnologia, perché immagini sovrapposte, montate in maniera molto particolare, erano anni in cui tutto questo in realtà non si poteva fare. Allora, come faceva Nicholas Ray? Qual era il suo rapporto con la tecnologia? The means by which he made this film, he was interested in technology and in what was developing, so because it could make his job easier. He wasn't interested in technology for technology's sake. It's what it could do. It's how it could further the vision. He made We Can't Go Home Again with the video synthesizer, that was, and the solarizer, that was the most advanced equipment. It was the vision that was ahead of its time. If he had the technology available now, it would have, among other things, been a lot easier and a lot less expensive. The vision, che è una parola della quale abbiamo sentito parlare molto in questi giorni, appunto, torniamo alla figura di Steve Jobs, the vision, la visione, e anche qui torna questo concetto. E anche quest'idea di utilizzare la tecnologia, non essere semplicemente tecnologici, quindi he was interested in technology, esattamente come in italiano, essere interessati, o non proprio come in italiano, anche noi possiamo dire in, però noi tendiamo a dire essere interessati a, invece in inglese è to be interested in technology, e in what was developing, and interested in what was developing, quindi in tutto quello che succedeva. Perché? Because it could make his job easier. Perché era naturalmente un facilitatore. Guardate, è lo stesso concetto dell'iPad 2, se vi riguardate il commercial di Steve Jobs, che si intitola We Believe. Crediamo, We Believe. Lui utilizzava, Nicholas Ray, le tecnologie a disposizione in quell'epoca. Susan Ray parla di un video synthesizer, che era l'equipaggiamento, l'attrezzatura più avanzata dell'epoca. È certo che se lui avesse avuto a disposizione quello che c'è adesso, probabilmente avrebbe fatto molto di più. E notate anche qui advanced, un aggettivo molto lungo, quindi non può dire the advancedest, ma deve dire the most advanced, quindi appunto l'equipaggiamento, lo strumento, il più avanzato che c'era in quel momento, e però torna a spiegarci, in realtà non era tanto quello l'advancement che dobbiamo riconoscere a Nicholas Ray, ma the vision that was ahead of his time. E naturalmente se avesse avuto la tecnologia that is available now, che abbiamo adesso, il suo lavoro would have been a lot easier, quindi molto più facile e poi a lot less expensive, e avrebbe speso anche di meno. Forse la spesa è stata anche una delle ragioni per le quali questo film non ha mai visto la luce. Questo film, che lo ricordiamo, è stato presentato nella sua versione restaurata a Venezia, si intitolava We Can Go Home Again. Magari vi posteremo qualcosa nella nostra bacheca di English 24, e così vi ricordiamo anche che c'è nella nostra pagina di Facebook, vi ricordiamo anche che c'è il solito appuntamento con il numero di English 24 in edicola. Ringraziamo Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.